C'è una terra di sogno dove il cielo è più azzurro e la gente è felice sempre là ad Aruanda. Lì nessuno è mai triste, là nessuno si affretta e l'inverno non viene proprio mai ad Aruanda. Quando il sole tramonta e la notte s'accende, ogni stella lo sa che laggiù c'è Aruanda. Ogni mio dispiacere, ogni pena d'amore scorderò se mi porterai con te ad Aruanda. Sulle spiagge dorate, tra la gente felice, nascerà un grande amore tra di noi. Questo ci può accadere, basta solo volere, presto non ci pensare, vieni ad Aruanda. Nascerà un grande amore tra di noi. Questo ci può accadere, basta solo volere, presto non ci pensare. Vieni ad Aruanda, vieni ad Aruanda, vieni ad Aruanda, vieni ad Aruanda, vieni ad Aruanda, vieni ad Aruanda.